È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Va, va, baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tan tan tan, ti baci in quantità. Caro Parenzo, senti cosa dice il giudice di Milano, il procuratore aggiunto di Milano Pietro Forno, nel suo intervento di lunedì scorso, come risulta dalle trascrizioni. Dice Forno che Ruby Rubacuori, che tutti quelli che ci stanno ascoltando conoscono, racconta di essere stata coinvolta in un bacio saffico con la Minetti. Beh, una meraviglia. E sappiamo da tutta una serie di fonti, scrive sempre, dice sempre Forno, fonti assolutamente indipendenti, che il fruitore finale aveva interesse per questo tipo di condotte, cioè Berlusconi. Quindi non è una invenzione della ragazza. Forno, bacio saffico con Minetti. Questo accade al Tribunale di Milano. Ci sono 70.000, da quello che ho letto, 70.000 telefonate, 4 milioni e mezzo tra file, email. Tanto che a un certo punto tutti scrive... elementi probatori, amico mio, tutti elementi probatori. Senti, scrive Panorama, sì. Che a un certo punto in una lettera indirizzata il 16 aprile dalla Guardia di Finanza ai 2 PM, un ufficiale, sì, dopo un periodo di inattività sul computer di Bisignani, chiede ai magistrati di valutare l'opportunità di cessare le operazioni considerato l'elevato costo del sistema di intercettazione telematico. 70.000 telefonate, quasi 4 milioni e mezzo tra file, email, chiamate effettuate via internet, il bilancio delle intercettazioni svolte nell'inchiesta P4. Ed è stato risolto anche il giallo del bordello, sempre dalla trascrizione. Abbiamo proprio tutti gli elementi, dice sempre Forno, di una struttura organizzativa. Abbiamo l'arruolatore, abbiamo il fidelizzatore e abbiamo, possiamo dire, l'amministratore del bordello. Dunque è tutto vero, è inutile smentire. Colui che paga le dipendenti, colui che si occupa della location. No, ma infatti qui bisogna solo capire se c'è reato o no, fine. Vabbè, ma questo è scontato. Invece ieri ci siamo attaccati alla parola, no? Perché nelle aule di giustizia non si può pronunciare la parola. Secondo me no, secondo me no. Il signor Cruciani si scandalizza. Ma che mi scandalizzo, figurati. Bordello. Allora, Rocco Buttiglione ha dichiarato di essere un seduttore molto bravo, di essere anche più bravo di Berlusconi in un'intervista al settimanale A. Perché, dice lui, bisogna corteggiare le donne in un certo modo, io so le lingue, sono bravo a corteggiare, eccetera, eccetera. Professor Buttiglione, naturalmente, sono ballo, canto e so le lingue. Invece... non, il premier non ricorda più come si fa a corteggiare una donna, sempre secondo Buttiglione. Io sono bigotto e me ne vanto. Quello che ho detto è: amare una donna non è portarla a letto, perché a letto è meglio che dormi con una donna sola. Bisogna imparare ad essere amici delle donne, ad essere cortesi con le donne, a rispettare nelle donne la bellezza, la femminilità. Tutto è venuto fuori come se io fossi un playboy che si mette in competizione con Berlusconi. Questo è il motivo per cui non è esattamente quello. Allora, a proposito dei ticket sanitari, cose un po' più serie che forse sì, forse no, verranno introdotti nella legge, nella manovra, voglio farvi risentire quello che Berlusconi diceva il 9 di ottobre del 2006, governante Prodi, lo diceva anche Tremonti in realtà, contro i ticket nel pronto soccorso. Adesso si ipotizza il ticket sul codice bianco, ma comunque adesso senza scendere nei dettagli. 9 ottobre 2006, voce canta Berlusconi versus ticket. Io non so se sia giusto o no, però... Bravo. Ci sono delle cose che, se fossero state proposte da noi, avrebbero suscitato degli scandali incredibili. Pensate che si deve pagare il ticket se si va in un pronto soccorso. Pensate che hanno eliminato, per esempio, il 5% che avevamo individuato da dare alle associazioni del volontariato. Allora, continua a parlare anche Lepore, non si ferma dopo i vari interventi, soprattutto quello di 8 e mezzo che ha scandalizzato molte persone. Appena li tocchi ci delegittimano, appena tocchi i politici. Questa credo che sia un'intervista al TG3, sentiamo. Lei ha detto i politici si sentono intoccabili riguardo questa inchiesta, ma perché? Ma non nei confronti di questa inchiesta, ma nei confronti di qualsiasi inchiesta che tocchi il potere. È quasi una reazione, si ha immediatamente una reazione quasi unanime di tutti quanti, indifferentemente dalle colorazioni politiche, che tendono a delegittimare l'opera dei magistrati e l'attività di indagine che svolgono. Hai qualcosa da dire sull'Epore, Parenzo, come al solito a difesa dei magistrati, oppure no? Ah, possiamo fare un piccolo e veloce editoriale, cari radioascoltatori della Zanzara. Sorprendici. Quando un procuratore capo, seppur sull'orlo della pensione, quindi vicino ormai a lasciare questo alto incarico, decide di passare un giorno sì e l'altro pure nei salotti televisivi delle nostre televisioni nazionali a parlare delle importanti inchieste che sta seguendo, beh, caro Lepore, detto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari, alle volte è meglio parlare con le sentenze, altrimenti ci sono solo due parole da dire: a casa, a casa. Eccoci qui, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, e sempre col massimo rispetto, sempre però, sempre con grandissimo rispetto per le autorità giudiziarie. In questo caso si parla con le sentenze, non si va da un talk show all'altro, da un telegiornale all'altro, anche se si è sull'orlo della pensione, come ci ha detto ieri Bocchino, perché non va bene parlare male in generale della politica. I politici reagiscono quando li si tocca, un magistrato che comunque è capo della Procura di Napoli, ma si è detto sempre con il massimo per le autorità civili, politiche rispetto e militari. Allora, c'è da riportare, perché molti ascoltatori ci spingono a farlo, un'intervista che ha visto protagonista il ministro dell'attuazione del programma Rotondi, il signor Rotondi, il quale in un'intervista ad Antonello Caparole su Repubblica di oggi, o di ieri, non mi ricordo, forse oggi, dopo aver dato un'intervista a Libero in cui diceva la gente ci detesta, ci rimane la cassa, se vogliamo restare in sella dobbiamo coccolare i parlamentari, tanto siamo molto impopolari, più impopolari di così, dice: si campa facendo i conti della serva, cioè lui parlamentare and ministro, per la famiglia restano 4.000 euro, un parlamentare non naviga nell'oro, un tempo risparmiavo metà indennità, insomma piange sostanzialmente miseria. Fabrizio da Latina, buonasera. Beh, caro Rotondi. Caro Rotondi, poi beh, facciamo, diciamo qualcosa anche su Rotondi. Caro Rotondi, io mi sto già caricando a molla, Fabrizio, caro dalla... Rotondi. Fabrizio da Latina. Buonasera. Beh, insomma, non si può, come si può dare torto al ministro Rotondi? Si deve piangere misera, mica si può dire il contrario. No, invece intervenire. Lei crede che il parlamentare navighi nell'oro? Le faccio la domanda a lei, perché è la stessa domanda che pone in realtà Rotondi all'intervistatore di Repubblica. Lei crede davvero che il parlamentare navighi nell'oro? Dice ironico Rotondi, sembra dire poi, Io posso avere una mia opinione. Naviga nell'oro secondo lei un parlamentare? Ma secondo me assolutamente no. Cioè lei è d'accordo con Rotondi? Ma assolutamente sì, sono certo che sì. Ah, ma lei è ironico. Assolutamente. Addirittura dice Rotondi: conosco colleghi che valutano se possono restare a Roma un giorno in più, costretti a fare il conto della serva. Come noi, d'altro canto, come può darsi... Come tutti. Quindi, possiamo dare torto al ministro Rotondi? Siamo tutti qui a fare i conti della serva. Bisogna solo capire chi è la serva. Va bene. Senta, io invece volevo intervenire a proposito di questo un nuovo scandalo che c'è sulla parola bordello che è stata attribuita alla casa del Presidente del Consiglio. Come doveva appellare la casa, l'abitazione in cui si esercita, naturalmente secondo l'accusa, la prostituzione? È quello il termine, come doveva appellarla questa abitazione? Non è proprio quello il termine. Scusi, può abbassare la radio, signor Fabio? Non ce l'ho. C'è un ritorno fastidioso. Comunque, il problema è molto semplice. Anche se dovesse essere dimostrato che là si è svolta attività di prostituzione, diciamo che il termine bordello è ancora... Però, insomma, sono fasi in cui il PM chiaramente esprime la propria posizione. Io trovo bizzarro che si possa definire un posto come bordello, però detto questo... E come si doveva chiamare? Io ancora non ho capito. Va bene, per te è tutto normale, va benissimo. Ma non è tutto normale, ma chi come autorevolmente come te dice che non dovevo usare la parola bordello? Mi dici un sinonimo. Ma che vuol dire? Tu sai benissimo che si possono utilizzare il bordello. Un luogo nel quale veniva evidentemente il bordello è qualcosa di stabile, come sai, no? È qualcosa evidentemente di stabile, diverso da una magione, da una dimora dove occasionalmente, secondo le ipotesi dei magistrati, sia svolta l'attività di prostituzione. È una cosa un po' diversa. Il bordello, come sai benissimo, è qualcosa di stabile. Io voglio capire dal signor Fabio da Firenze se anche lui è un amante del bacio saffico. No, sinceramente no. Sinceramente no. Parenzo invece? Ma se me la trovo una pratica antica, saffico appunto, quindi di origine greca, meravigliosa, sì, assolutamente erotica e assolutamente non disdicevole. Non. Naturalmente direbbe Sallusti, dove è reato? In questo caso, come sappiamo, c'è in ballo una minorenne ed è per questo che se ne parla. Lì è diverso. Cioè, lì è diverso, è anche più grave, sarebbe, anche se non fosse minorenne, sì, sarebbe gravissimo. Perché questo governo si è contraddistinto per questo lo sappiamo, adesso c'è la contraddizione. Ma lo sappiamo, l'hai ripetuto 40 volte, non c'entra niente. Ma non stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando radicale, bacio saffico, e non di chi si. Non stiamo parlando di questo. Battaglie dei cattolici, della Chiesa. Ecco, non funziona così, scusami. Traffico. Manda il traffico quando si arrabbia. Baciami piccina con la bocca piccolina. Allora, mettiamo in collegamento colei che doveva essere nostro ospite. Ecco qui, Daniela Santanchè, caro Parenzo. Ah, ottimo. Però abbassa il telefono. Riproviamo. Mi riprovate, per favore? No, adesso voglio provare in diretta. Non lo so, poi è in linea, è caduta la linea, adesso non risponde. Giallo Santanchè la donna. Mi richiamate, per favore, la signora Santanchè? Grazie. Portatevi un prosecchino a me, intanto. Eccola. Ora becchiamo, eh. Pronto? Sì? Pronto? Inutile che vuoi farmi credere che risponde la Santanchè, caro Parenzo. Ha chiuso. Come lotta la Santanchè, come lotta. Richiamiamo. Tanto prima o poi risponde, Per forza. Chiama da numero sconosciuto. Ma è il numero sconosciuto? No, devi fare *31* e poi il numero. Ma è il numero sconosciuto, che ne sai? No, io una volta avevo una fidanzata che non rispondeva mai al telefono. Quando veniva il mio numero, non so perché. Non so perché ridi. E allora io facevo *31* il numero e la tanavo subito. Pronto? Squilla il telefono di Daniela Santanchè. Sì. Va bene, Fabio da Firenze, 800 24 00 24. Fabio, dica. Sì, buonasera a Cruciani e Parenzo. Stavo chiamando per il famoso termine bordello usato ieri sera nel vostro partito. Senti, se a tutti voi pare normale che si possa utilizzare il termine bordello. Va benissimo, mi arrendo, alzo le mani, mi arrendo. Ma che c'entra il sinonimo? Hai ragionamento. Mi arrendo, alzo le mani. Ma scusa, Cruciani, il ragionamento è che il termine bordello è in sintonia col capo d'accusa che sostiene il pubblico ministero. Ma sì, certo, secondo il pubblico ministero, realtà la parola bordello ha un altro significato. La parola bordello. La parola bordello è qualcosa di fisso. Non è che il bordello è itinerante. È una volta sì e una volta no. Il bordello è sempre, è fisso lì. Sì, il pubblico ministero vorrà dimostrare che da mesi e mesi c'erano queste pratiche di... Ma che mesi e mesi? Non è che ogni notte il bordello è in attività ogni notte. No. Se lei va in Svizzera, sì, se lei va in Austria dove esistono i bordelli, è in attività sempre, ogni giorno. Si usa anche un sinonimo, la sostanza non cambia, cioè a parte il termine, il capo d'accusa viene preso dal pubblico ministero, che non è un giudice che dà il pregiudizio, no, come dicevo lei ieri sera, perché noi italiani... Guardi, per me potrebbe essere anche peggio, No, ma perché da poi è normale che il pubblico ministero abbia, tra virgolette, un pregiudizio, perché essendo l'accusa, è evidente che fa la sua parte, dunque secondo il pubblico ministero la casa di Berlusconi si era trasformata in un vero e proprio bordello, ma va benissimo. Sarà da dimostrare, chiaramente, cioè non è già deciso, però ora... la difesa sosterrà che non succedeva nulla, il pubblico ministero proverà a dimostrare che invece c'è la Costituzione, poi il giudice deciderà, però non è un pregiudizio. Non è uno scandalo, secondo lei non è uno scandalo, benissimo. Il discorso di usare quel termine, già gli italiani hanno fatto il giudizio, come diceva ieri sera, il pregiudizio di noi italiani, che prima ancora delle sentenze già abbiamo stabilito che era bordello. No, io non dico questo, però il pubblico ministero fa il suo mestiere, cioè lui porta la sua parte, che è quella dell'accusa, e poi sarà il giudice a decidere. Va bene, grazie Fabio, andiamo a Vicenza. Diego, buonasera. Sì, salve, sono in linea. Sì. Fino a prova contraria, sì. Vabbè, perché non ho la radio accesa. Niente, volevo fare, in base a quel discorso... Scusi, se parla con me, no, per curiosità, è curiosa questa, se parla con me, secondo lei io in questo momento dove dovrei essere? Cioè, ah, non lo so, perché penso che di essere in linea. Beh, allora, stavo parlando di intercettazioni, no? Sì. E, cioè, secondo me la discriminante del fatto che si sia l'ameno il reato, non la trovo così, è un po' troppo restrittiva, cioè... Intanto dipende dalle persone, se una persona fa vita pubblica, infatti si dice se di la vita privata, una pubblica fa un altro genere di vita, forse bisogna anche di vedere quello che è, se è necessario che sia discriminante del reato. Per esempio, io penso che non sia assolutamente un reato che uno che dopo un terremoto si faccia una grande ignazzata, che ride, che ci faccia, non è un reato, però siccome poi magari dobbiamo dare un appalto, e l'appalto si fa con i soldi pubblici, quindi anche i miei soldi, personalmente preferirei saperlo, anche se non ma è un cosa, reato. Ma cosa preferirebbe sapere? Scusa, non ho capito, Diego. Che, diciamo, ci sono stati degli imprenditori che nelle intercettazioni ridevano... ma quello è un altro discorso, lì c'è un'ipotesi accusatoria nei confronti di quegli stessi imprenditori. Guardi, lei preferisce sapere, ha interesse a sapere, come sostengono alcuni, che bisogna sapere tutti, ha interesse a sapere che il signor Briatore dice che la sua amica o ex amica Santanchè è una anzi è una stronza? Ha interesse a sapere questo lei? Aspetta un secondo. No, ha interesse a sapere questo, sì o no? Questa cosa no, quello che ecco. Santanchè però dica che Berlusconi, che a noi quando va in televisione dice che fa grandi serate, lui suona il mandolino e che si fanno grandi partite di risico perché è una persona buona così, e poi invece in privato mi dice che è tutta un'altra persona, per me c'è anche l'estremo della truffa, perché mi viene a raccontare sì, la truffa adesso. Le balle fanno parte della caro Diego, le balle fanno parte della politica, lei lo sa o non lo sa che le balle fanno parte della politica? Con una persona pubblica io se riesco a sapere che racconta balle non ci trovo. Benissimo, lei è a favore del grande fratello telefonico, il controllo continuo di tutti i parlamentari, come non per tutti? Non per tutti, per i parlamentari, per chi fa vita pubblica. Per chi fa vita pubblica, lei è d'accordo con una cosa folle? Lei è d'accordo per una del rapporto che ha tra loro e la gente che gli dà fiducia? Benissimo, Diego. Lei è d'accordo per una cosa folle? Secondo me sì. Va bene, d'accordo, ho capito benissimo. Rispondermi su quell'altro discorso. No, io le rispondo su questo, rispondo su quello che mi pare. Le dico subito che lei è d'accordo su una cosa folle, cioè siccome questi signori hanno un incarico pubblico, allora è giusto che i loro pensieri più reconditi, quello che pensano nel segreto delle loro stanze su Berlusconi, sull'opposizione, su quello, sugli amici, eccetera, venga reso pubblico. Così sappiamo. Se uno che fa vita privata, sì, penso, questo, pubblica, lei, penso lei di... vuole vivere in un paese ridicolo. Lei vuole vivere in un paese in cui si controlla la vita privata delle persone. È una cosa non ridicola. Le persone folle. Che fanno vita privata. Le persone vita pubbliche, pubblica. Ma non ha senso quello che lei dice, non ha senso. A dopo. Siamo qui, caro Parenzo, in diretta dall'isola di Ponza, 800 24 00 24, e si avvicinano gli ultimi giorni di Pompei. No, in realtà è semplicemente gli ultimi giorni dell'annunciatrice Maristel Polanco, che per mesi ci ha accompagnato qui alla Zanzara. Aspetta un attimo che qui chiedo. Scusi? Buonasera, scusi. Il signor Vespa c'è? L'avete visto in questi giorni? Torbuno Vespa. Non l'ho visto. Perché mi hanno solo il collegamento con Cruciani di Radio 24, la Zanzara, il direttorissimo. Chiedeva se c'era notizia del dottor Vespa. Non l'ho visto. Non l'abbiamo visto. Grazie. Ma dove ti trovi? Nel bar frequentato da Vespa? No, sono esattamente nella piazzetta di Ponza, nel bar solitamente frequentato dal direttore. Oggi pomeriggio ero con un piccolo gozzo. Buonasera. Buonasera. La Zanzara, Radio 24, come sta? Bene. Ottimo, grazie. Quello non è Vespa, però. No, era un signore, un ponzese, una persona molto per bene, comunque. Vabbè, non lo conosci, come fai a dire una persona per bene? No, si vede, si capisce, è qui a festeggiare un aperitivo. No, ma stavo passando sotto col mio piccolo gozzo, sì. Mio piccolo gommoncino, andato in avaria dopo 5 minuti, ovviamente, non sapendolo guidare, e sotto la casa del dottor Vespa c'erano le finestre aperte, allora ho immaginato fosse sull'isola. Adesso sto battendo palmo a palmo per mandartelo in diretta, subito. Bene, allora, Maristel Polanco annuncia al TG3, uno degli ultimi giorni. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. La maggioranza tratta sulla manovra, ma intanto va sotto sulla legge comunitaria. Cicchito, sconfitta seria, ma non ci arrendiamo. Bersani al TG3, la manovra è una bomba innescata sulla spesa sociale, la maggioranza non esiste già più, non riuscirà mai ad approvarla. Nella manovra superbolo su autopotenti, operazioni finanziarie, Napolitano indispensabili misure per il biennio 2013-14, serve uno sforzo convergente. La giunta della Camera rinvia la discussione sull'arresto del deputato del PDL Papa, coinvolto nell'inchiesta P4, possibile il sì della Lega. Il Parlamento greco approva la manovra da 78 miliardi del piano di austerity, mentre in piazza si scontrano manifestanti e polizia. Morte cerebrale per il giovane musicista massacrato di botte nel centro di Roma e nella notte caccia al gay, polemiche sulla sicurezza nella capitale. Finiti i soldi per gli straordinari, a Napoli tagliate le scorte ai magistrati, costretto a tornare a casa in metro, in autobus, anche chi indaga sui camorristi. Qui non molliamo, caro Parenzo, non molliamo, sentiamo. Ah, con la Sant'Anché, dici? Quando c'è un appuntamento c'è un appuntamento, eh. No, su questo hai ragione, adoro i tuoi formalismi. Hai ragione, questo è così. Come il caso del professor Asorrosa, era in linea e poi non ha risposto. Vabbè. Il professor Asorrosa, caro professore. Il telefonino che sentite squillare, gentili ascoltatori, è quello dell'onorevole sottosegretario all'attuazione del programma Daniela Santanchè, che aveva un appuntamento con noi, si era messa in linea. Pronto? Sì? No, non risponde, non risponde. Ma non c'è qua il signor Vespa. Questa è l'edicola. Ah, ecco qua. Salve. Questa è l'edicola dove solitamente il signor Vespa viene a comprare i giornali, vero? Ah, sono con la Zanzara, Radio 24, Cruciani. Volevano avere informazioni sui giornali che compra Vespa. Tutta la battesta in genere, no? Ecco, tutti i giornali se li fa portare o... Vabbè, ma non è una cosa strana, cioè che Vespa compra i giornali all'isola? Un momento, sto facendo un'inchiesta, Cruciani, per cortesia. Scusami. Sto facendo un'inchiesta delicatissima. Scusami. O manda una filippina magari a prendere. No, non ha una filippina, un amico a prendere una mazzetta intera di giornali ogni giorno. Ma è qui in questi giorni, perché l'ho visto sabato. Non l'ha visto. Ah, perché c'è un'altra edicola. Ah, dove va ogni tanto lì a prendere i giornali. Le inchieste di Parenzo. Grazie. Certo, le grandi inchieste di Parenzo. Certo. Bene. Siamo sempre in collegamento con la Zanzara, 800 24 00 24. Chi hai trovato lì ancora? Vespa, no, non l'hai trovato. Qui al posto dei gommo. Salve. Come stai? No, sono al telefono in diretta, salve ragazzi, con la Zanzara, Radio 24. Sì. E io so che qui in genere viene il dottor Vespa a prendere la sua barca, no? Il motoscafino. Sì. Lo noleggia qui da lei, no? Sì, lo noleggia. Ecco, ma come guida il signor Vespa il motoscafo? Malissimo. Come malissimo? Malissimo. Il direttore di porta a porta. Malissimo. Malissimo. Non è che per forza ma uno... Ma il plastico di Cogne, perché si porta il plastico sul motoscafo, quello di Cogne? Si porta? Sul motoscafo, carica il plastico di Cogne per caso? Sì, anche. Niente. Grazie, prego. Dell'isola della Vegas, grazie. Le inchieste di David Parenzo. Le grandi inchieste di Parenzo. Va bene, 800 24 00 24. Alba da Roma, buonasera. Buonasera. buonasera. Yeah. Dica, un'ascoltatrice. Volevo parlare, appunto, fare qualche commento sulla definizione di bordello, quindi sull'utilizzo del termine bordello da parte dei PM. Sì. Sono d'accordo con lei e lo volevo anche motivare in questa maniera. Intanto va bene con una notazione di tipo letterario: la prima volta che mi ricordo nella mia vita di aver sentito il termine è stato con Dante nella Divina Commedia. E già questa è una testimonianza a favore di quanto lei afferma, vale a dire che comunque il bordello è qualcosa di stabile. Bordello mi pare che lo usi Dante nel Purgatorio per definire l'Italia, non donna di provincia ma bordello, quindi sì, con una situazione quindi che è dell'Italia dell'epoca senza guida e una situazione di corruzione particolare. A parte questo, se la diciamo da dizionario la parola bordello ha come sinonimo casa di tolleranza, ecco, e anche il termine casa presuppone comunque una stabilità che evidentemente Arcore non mi pare che avesse, considerato che anche dalle vostre interviste poi emerge che ci sono persone che ci sono state senza partecipare ad al... Ma di che parla, signora? Chiedo scusa, gentilmente. Prego? No, dico, tutta questa dottissima disquisizione sulla, sulla parola bordello. Per significare cosa? Per motivare quanto affermato all'inizio da Cruciani relativamente al fatto che non può essere definito bordello qualcosa che può succedere saltuariamente. Ah, ecco, quindi un bordello semovibile, se l'avesse chiamato, scusi, se il dottor Forno lo avesse definito bordello semovibile, sarebbe andato bene? Bordello semovibile. Ma no, ma il bordello certe, è stato uno simoro, il bordello ha certe caratteristiche, comunque vedremo se poi l'utilizzazione Vespa, di questo termine qui. Che succede, Bruno Vespa? Abita è qua in zona? No, sta a Calasseo. Dov'è che sta? Sta alla chiesa. Alla chiesa? La chiesa delle Forna, sotto la chiesa delle Forna. Sì, ma l'ha vista in città in questi giorni? Non no, in questi giorni non l'ho visto in città. C'era un... Vabbè, non c'è, arrenditi, non c'è Vespa. Grazie. Ponza. No, è un'inchiesta delicatissima che sto delicatissima. Facendo. Massimo da Macerata, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica, signor Massimo. Le posso fare una domanda? Dica e faccia tutto quello che vuole, può anche spogliarsi, altro lo vediamo. Le ultime due settimane lei e Parenzo avete fatto molta ironia sulla struttura Delta. Beh, veramente il nome sì, si può vedere. Non solo l'altra settimana, è da mesi che faccio ironia sulla struttura Delta. Sul nome sono d'accordo con lei, si può fare l'ironia, struttura Delta. Però non so se ha letto o ascoltato le interpretazioni che stanno sul sito di Repubblica oggi. No, guardi, non ho tempo per queste cose. Ah, ecco, guardi, ci va, è veramente uno spaccato molto interessante. Sì, sempre intercettazioni, ormai si parla solo di intercettazioni telefoniche, guardi, le inchieste si fanno solo con le intercettazioni telefoniche. Evviva, evviva l'Italia! Ma non è un'inchiesta, caro Cruciani, è uno spaccato di questo nostro paese. Appunto, però che vuol dire? Spaccato attraverso le intercettazioni o no? Che in quelle intercettazioni, se lei le ascolta, che non ma guardi nemmeno... che l'ho ascoltate benissimo, stavo scherzando, l'ho ascoltata. Allora che cosa le devo dire? Cosa le devo dire? Mi dica, cosa mi deve dire? Se vengono messi, c'è un ufficiale di collegamento come la Bergamini che... Sì, un ufficiale di collegamento, un generale. Certo, regola anche i minimi dettagli. È tutto chiaro. E poi faccio una cortesia, Cruciani, mi può fare... Perché non chiama Zerbino Pionati? Zerbino Pionati, ma lo chiamiamo spesso. No, ma non guardi, dopo la vittoria delle regionali del 2005 del centro-sinistra, c'aveva una FIFA boia, ha chiamato 20 volte la Bergamini per cercare un posto, qualcosa. È lo zenith del leccapiedismo italiano, le faccio ascoltare. Lo zenith del leccapiedismo italiano. Signor Pionati, il nostro amico Pionati. Benissimo, no, ma il nostro grande Francesco Zerbino Pionati. Bene. Va bene, Cruciani. Grazie. Fate ascoltare. Buonasera, tante belle cose. Grazie a lei. Stefano da Modena, buonasera. Sì, buonasera a lei, dottor Cruciani. Io volevo intervenire sulla frase di Rotondi. Sì. Perché? Quale frase? Ne ha dette tante. Quella dei 4.000 euro. Quello dei 4.000 euro che non gli sono sufficienti per andare in vacanza. Mm. Ecco, sentivo prima la trasmissione di Barisoni, io non l'ho letta su Quotidiano, la trasmissione del suo collega. Mm. Devo dire che secondo me... ha parlato Barisoni di questa cosa? Sì. Sì, sì. Vabbè, dica. Volevo volevo dire questo, secondo me oggi come oggi ci stiamo perdendo su questioni di bordello, su questioni di quello che fa Silvio Berlusconi a casa sua, eccetera. Secondo me la questione importante è capire quanto questi politici siano distanti dalla realtà. Vorrei un suo parere su questo discorso qui. Ma guardi, sull'uscita di Rotondi, cosa vuole che risponda sull'uscita di Rotondi quando dice che i parlamentari non navigano nell'oro? Bisogna sempre vedere qual è il termine di paragone. Vuoi fare il tuo editorialino? Beh, guarda, sarebbe troppo facile, cari amici della Zanzara, mettersi a confutare le tesi autorevoli di un ministro della Repubblica che è incaricato di attuare il programma di governo, impegno assai gravoso e difficile, tanto sudore ogni giorno per attuare questo programma di governo, caro ministro e deputato Rotondi. Allora ci viene in mente soltanto una domanda, caro Rotondi: ma quegli operai della Fiat che abitano a Nichelino e che devono andare ogni giorno a lavorare con i mezzi pubblici, che cosa dovrebbero dire, visto che guadagnano 1.200.000 euro al mese? Caro Rotondi, per descrivere tutto quello che hai detto ci sono solo due parole e vengono dal cuore, Rotondi: a casa, a casa. Un parlamentare non naviga nell'oro, un tempo risparmiavo la metà dell'indennità. Borsa. Sobrio, come sempre, editoriale. Non si molla qui alla Zanzara, caro Parenzo, non si molla. Come l'otte lì a Milano. Sempre il telefonino della signora Santanchè, eh? Non mi confondere. Tanto non risponde, eh? Sta squillando il telefonino del sottosegretario Danilo Santanchè, che aveva un appuntamento con noi, si è messa in linea, poi ha fatto cadere il telefono e non ha più risposto. Vabbè, volevamo chiederle di Bisignani, di altre cose. Squilla il telefonino, squilla, deve squillare, deve continuare a squillare fino alla fine della trasmissione. Non si molla qui alla Zanzara, non si molla. Renzo Da Lucca, dica. Dottor Cruciani, buonasera. Dica. Senta. Proseguiamo, su. Definire pensione d'oro, pensione di 4.000 euro al mese netti. Ma chi lo ha detto pensione d'oro, scusi? È una pensione d'oro, c'è scritto su tutti i giornali. Le pensioni d'oro saranno cristallizzate e non seguiranno una certa dinamica in funzione dell'aumento del costo della vita. Questo la chiamate pensione d'oro. Ecco, io dico semplicemente questo, indipendentemente dal discorso di Romani: per riuscire a maturare una pensione di 4.000 euro netti al mese, personalmente mi sono fatto un mazzo non indifferente. Vabbè, lei vuole difendere il fatto che prende 4.000 euro di pensione al mese, ma non ecco, Renzo, qual è il problema? Scusi. Ecco, io dico questo: no, cristallizzare e non lasciare che abbia la sua naturale dinamica, dopo essere già stato rapinato una volta dal governo precedente, che ci ha fatto perdere circa l'8%, 10%, dall'8 al 10%. No, però scusi Renzo, adesso qui non è lo spazio per rivendicazioni individuali, per il fatto che lei adesso si sente forse toccato dal fatto che... Ascolti, mi scusi, perdoni un attimo, perché poi Renzo si va a confrontare con un operaio, e allora si confronti lui con un operaio. Mi perdoni un attimo. No, ma lui stiamo parlando di quello che ha detto Rotondi sullo stipendio dei parlamentari, non sulle pensioni. Ma sì, ma Rotondi Rotondi parlava di pensione. Parlava dello stipendio da parlamentare. Su, signor Renzo, abbia pazienza. Va bene. Allora, comunque è un argomento che interessa a tutti. Ma non credo proprio che qualcuno voglia toccare la sua pensione. Abbia pazienza. Dove l'ha letta questa cosa, Renzo? Dove l'ha letta? E nelle e nella manovra finanziaria. Ma non penso proprio che se lei ha maturato il diritto a prendere 4.000 euro di pensione al mese qualcuno le possa toccare la pensione. No, ma blocca la dinamica. La dinamica in funzione all'aumento del costo della vita. Vabbè, ho capito. Adesso la rivalutazione, come, sì, che vabbè. Possiamo fare noi? Che dobbiamo fare? Va bene, va bene. Ma Parenzo ti ha detto che la deve fare perché me l'ha già fregata prima il suo governo. Io le ho fregato la pensione. No, il governo. Non lei. Il governo che lei, al quale lei è affezionato. Va bene, Renzo, non mi pare che lei si possa lamentare della sua pensione, perché se la sarà meritata la sua pensione, ma certo non si può lamentare della sua pensione, signor Renzo, o no? No, perché mi perdoni, uno imposta la sua vita, no, da dirigente. Ma infatti in non sto dicendo, ma non stiamo dicendo nulla. Non riesce a reggere un discorso del ma genere. Nessuno gliela tocca la pensione, non si preoccupi, nessuno gliela tocca. Grazie, Enrico da Firenze. Luciani, buonasera. Dica. Mi riferisco a una telefonata quando sono salito in macchina per fare un viaggio alle 7:10, c'era un signore che le contestava l'idea che nelle intercettazioni, o meglio, lui diceva che nelle intercettazioni sapere della parte pubblica delle persone pubbliche, perdoni, nella parte privata delle persone pubbliche, tutto sommato non era male, e le stava raccontando l'esempio della Santanchè che dice una cosa in pubblico fino anche a rasentare addirittura, come dire, il concetto di truffa. Per carità, biasimevole tutto il resto, però mi permetta di dire che quando lei poi ha voluto sottolineare che le palle fanno parte della politica, lei dovrebbe una che volta lei, scusi? Ogni tanto, che lei ha voluto argomentare che poi tutto sommato le balle fanno parte della politica. Ah, le balle, sì, non sto dicendo una cosa strana, sto dicendo semplicemente che la menzogna fa parte della politica, ma non lo dico, cioè, in tutti i paesi però, è così, non solo in Italia. Però è incontrovertibile che la maggioranza delle persone che anche l'ascoltano alla radio, le palle che racconta la politica ci hanno rotto le palle. E vabbè, allora prendetevela con quelli che secondo voi raccontano le balle quando andate a votare. Lei non dovrebbe fare altro che dire che fanno parte della sua politica, non della nostra politica. Vabbè, ha ragione lei. Lo accetta. Io sto dicendo una cosa scontata, ho detto una cosa. Non è una questione di voto, io lo devo poter dire tutte le volte che mi interessa che qui dice le palle, mi ha rotto le palle, non durante il voto, perché durante il voto purtroppo per me succedono miliardi di cose. Lo devo poter dire prima, dopo, durante. Ma lei lo può dire quando le pare. E lei quindi, se vuol sottolineare che è una cosa normale, la prego di aggiungere mia politica, la mia politica è quella delle palle. Ma non ho allora detto ha questo. Detto tutto. Ma non ho detto questo. Va bene, grazie. Ciao, non si possono nemmeno dire le cose scontate, talmente evidenti che in politica esiste l'arte della mistificazione, della menzogna, dell'esagerazione. Ci sono trattati interi da questo punto di vista, della demagogia, del cambiamento di opinione, del dire una cosa e poi farne un'altra. Ma non sto dicendo come... Naturalmente ci sono paesi dove questa cosa è ai massimi livelli, come spesso in Italia, come spesso accade in Italia, e paesi in cui magari si viene puniti per una balla detta durante la campagna elettorale. Ma questo è un altro discorso. Però esiste. Però prima hai fatto un'operazione verità e di informazione davvero encomiabile, lo dico senza ironia, perché hai fatto ascoltare quando Berlusconi all'opposizione attaccò Prodi per la questione dei ticket. Sì, sì. E lui disse, Berlusconi, mai noi aumenteremo il ticket perché ci sono i poveri malati. Beh, in questa manovra, in questa bozza di manovra pubblicata dai giornali, pare proprio che il governo Berlusconi abbia aumentato i ticket. Quindi hai fatto una grande operazione verità. Io chiedo alla RAI che la Zanzara diventi da bisogno di servizio pubblico e riceva il finanziamento pubblico. No, quello non lo vogliamo veramente. Comunque. No, però hai fatto una roba da servizio pubblico. Comunque, pare... che la RAI non fa, che Minzolini non fa, che Minzolini non fa. Va bene. Viva Cruciani! C'è nella manovra, pare che ci sia nella manovra la tassa sui SUV e le banche, ma abbiamo ottimo, come ospite come ospite il una persona autorevolissima. Una persona che è uscita fuori da una malattia terribile, qualcuno ha detto addirittura un miracolato, è stato uno negli anni, uno dei medici di Berlusconi, non so se lo sia ancora, Umberto Scapagnini, deputato del PDL, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta, signor Scapagnini? Ma guardi, io sono napoletano, quindi facendo le corna dico che sto bene, ho fatto l'altro ieri la TAC, esatto. E sono perfettamente pulito. Per cui... Quindi facciamo le corna, ma bravo. Non posso rispondere altrimenti. Faccia le corna e anche altro se vuole. Comunque ha fatto la ringrazio, ma ho la mano sinistra che è leggermente paralizzata, quindi non posso, diciamo, completare l'opera. l'opera. L'opera, un po' completa l'opera, però basta le corna, diciamo. Bastano le corna. La comunicazione è questa. L'onorevole Umberto Scapagnini ha fatto un controllo 2 giorni fa ed è tutto a posto. E siamo molto contenti, devo dire la verità, perché lei è uscito fuori da una situazione drammatica. Evviva. Ha scritto anche un libro, Il cielo può attendere, il buio della malattia, sì, luce della fede, pubblicato da PM qualche mese fa, in cui racconta una situazione incredibile. Insomma, praticamente avevano già pubblicato i necrologi, tu non te lo ricordi, Parenzo? Già lo davano per morto, è vero, onorevole Scapagnini? Guardi, le dico di più, a parte le due estreme unzioni che ho ricevuto, e quando sono stato ricoverato e poi sono stato, infine, circa 80 giorni in coma, ho perlomeno 5 o 6 volte ho sfiorato il grado di non compatibilità con la vita. Avevo il pH, quando sono stato ricoverato, avevo il pH, sarebbe l'acidità del sangue, 6,8, che non è compatibile con la vita. 50 di pressione e 20 di frequenza. Quindi lei si immagini proprio anche le persone che mi stavano vicino durante queste prime fasi del coma. Ma Silvio, in quei giorni ricevevano più che altro congratulazioni, no, veramente ricevevano condoglianze dai colleghi che ce la mettevano tutta per riuscire a tirarmi fuori. Senta, Scapagnini, ma quando lei era praticamente in coma, sì, insomma, vicino alla morte, ma Silvio venne a trovarla? Guarda, sì, Silvio è venuto a trovarmi più volte e ogni giorno chiamava per sapere come stavo. Tra di noi, vede, c'è un rapporto un po' particolare, cioè? Nel senso, cioè, c'è un rapporto di amicizia sincera che nasce nell'86, che quindi, anzi, si può dire che io ho fatto questo assaggio di politica, ma diciamo l'ho fatto assaggio già un po' di anni sì, però diciamo che per me il mio primo mestiere è quello di professore universitario e di ricercatore. Sì. Subito dopo, a fianco, io ho fatto per 10 anni il parlamentare europeo e sono stato l'unico italiano presidente della commissione ricerca. Poi ha fatto il sindaco di Catania con qualche problemino giudiziario ancora in corso. Quello è stato il sindaco. Ha fatto il sindaco di Catania i primi 5 anni benissimo. Sì. La seconda tornata ho avuto un sacco di mazziate. E ancora sono in ballo. È il destino di un po' dei sindaci, devo dire la verità. Senta, ma Berlusconi lotta come lei, lotta come un leone, ma l'ha visto in questa, ancora lotta. Uno pensa sia sempre finito, invece niente da fare. No, guardi, io le devo dire questo, lo dico con tutta sincerità, e lo dico con sincerità. Ripeto, sia perché sono stato suo medico per oltre 20 anni, ma lei non è più medico? Non è più medico? No, ora sono ritornato sono ritornato alla Camera da un anno e mezzo, ma dico, sono ritornato anche a rivederlo sotto quel profilo, perché quando è l'ultima visita che ha fatto a Berlusconi? Non ha bisogno lui di cose straordinarie, ha bisogno semplicemente di cose blande, che però tengano in equilibrio quel famoso elisir, cioè non esiste affatto. Si tratta di sostanze, di estratti vegetali e estratti, si chiamano neutraceutici, che sono principi attivi che si estraggono dagli alimenti, che hanno delle potenzialità farmacologiche molto interessanti, molto importanti, e che sono in grado di rinforzare in linea di massima il sistema nervoso, il sistema endocrino e soprattutto il sistema immunitario. Ma lei continua a darglielo quello che è stato improbabilmente chiamato elisir? Sì, abbiamo ripreso. Da quando è che avete ripreso questo elisir? Saranno un paio di mesi. Ma l'ultima visita che ha fatto a Berlusconi, quando è stata, signora? 2 settimane fa. Com'era fisicamente? Come sta? Guardi, un leone? Un uomo eccezionale. Io adesso non lo dico, ripeto, per amicizia. No, ma per carità, dico, no. Lo dico da osservatore esterno. Ecco, ma che visita è stata? Vecchio, approfondita? Ho una domanda diretta da fare, professore. Ecco, scusi un attimo, professore, ma che visita è stata? Approfondita oppure una visita medica così generica? Ma è stata la ripresa, si può dire, quasi un riaggancio ai 2 anni che non l'ho visto, che non l'avevo visto, perché ecco, ero io il malato. Ecco, ma non l'ha visto un po' sbattuto? Beh, sa, insomma, 2 anni di governo. Esattamente, guardi, le dico una cosa. Il mio campo, il campo di ricerca di cui io mi occupo da tanti anni, in cui siamo andati ormai molto avanti, è il rapporto fra cervello, sistema immunitario e sistema endocrino. Ora, Berlusconi, quello che mantiene in equilibrio questi sistemi mantiene in equilibrio il nostro stato di salute. Ecco, ma lui a che punto è da questo punto di vista? Che cos'è che lo fa sballare più di tutti? Lo stress. Lo stress è veramente l'elemento che fa sballare l'equilibrio fra questi sistemi. E dunque, che consiglio gli ha dato? Che consiglio le ha dato a Berlusconi? Riposati un po', riposati. No? Beh, guardi, riposati. Stress credo che ne riceviamo tutti quanti, tutti i giorni. Se lei pensa agli stress che ho ricevuto io. Ah, beh, lei poi. Tanto per gradire, dico, dopo che mi sono operato di cancro alla testa e mi ero ripreso perfettamente, ho avuto un incidente d'auto che mi ha sfondato il polmone sinistro, quindi pensi il tipo di stress, ecco, ed è ripartito. Ecco, ma Berlusconi a stress com'è messo in questo momento? Quando lei l'ha visitato 2 settimane fa, com'è messo? L'ha messo male, immagino, no? No, devo dire la verità. Lui ha una capacità di reazione veramente straordinaria, sia cerebrale e sia immunitaria. Guardi che chi ha ricevuto stress lo sa bene, ma le posso citare decine e decine di esempi. Addirittura negli Stati Uniti hanno fatto una classifica del rapporto fra stress e malattie, e soprattutto fra stress e cancro, e al primo posto sia per gli Stati Uniti e guarda caso pure per l'Italia c'è la perdita di persone care. Ho capito, dunque lei dice che lo stress della perdita della madre, no? Che quello è stato un colpo. Ecco, alcuni dicono, professore, però io ho una domanda da farle. No, alcuni dicono, un attimo solo. Alcuni dicono, professor Scapagnini, che per esempio questa storia del bunga bunga delle donne, eccetera, eccetera, sia stata anche una reazione alla morte della madre. Lei ci crede? Non sono in grado certamente di interpretarlo, però le dico questo più in generale, diciamo, con su Berlusconi, non in generale. No, dico un respiro più generale. In effetti lo stress, che naturalmente è soggettivo, perché ognuno di noi viene stressato da varie cose, e per lui sicuramente quello è stato uno stress molto forte, e quello può avere provocato anche avuto un cambiamento nel rapporto con le donne. Per esempio, qualcuno pensa che sia malato, no? Lo ha detto anche questo. Secondo lei è malato? Francamente non mi sento di dirlo, le dico la verità. No. Invece quello che mi sento di dire è che sicuramente anche il trauma del Duomo sulla testa è stato uno stress molto potente, eppure lui ha resistito. Guardi, ma è immortale, lei una volta disse immortale, poi si è corretto 120 anni. Alla fine vogliamo cambiare? Sì, cioè, io gli ho dato l'immortalità. Esatto. Poi per la verità, quando ci siamo rivisti dopo un anno e mezzo in cui io sono stato male, l'ho ritrovato certamente. E gli ho fatto anche il test per quella che è l'età biologica, e l'età anagrafica, e l'ho ritrovato, diciamo, rispetto a una persona normale l'ho trovato molto bene, però stava meglio. Quanti anni ha da un punto di vista biologico? Diciamo, dal punto di vista biologico, oggi ne ha, quanti ne ha Berlusconi? 75? È prevedibile che possa raggiungere i 120. È prevedibile che i 120, ottimo. Però uno come lui oggi, quanti anni ha effettivi? Lei che lo conosce bene. In questo momento c'è circa 10 anni di meno di quella che è la sua età anagrafica. Ho capito, 10 anni di Quindi meno. Quindi intorno alla sessantina. Ah, dimostra, ha un fisico da sessantenne, insomma. E questo non dimostra, perché quella l'età biologica è l'età vera che noi abbiamo. Senta, cosa ha Berlusconi? Io volevo capire questo, quindi vuol dire che insomma è ancora in grado di avere una praestanza fisica, sessuale di un sessantenne, no? Questo sta dicendo. Forse anche meglio, cioè? Dico la verità. Ecco. Cioè in che senso? Sessualmente attivo come un trentenne? Come Parenzo Cruciani. Posso dire il mio, trentenne non lo so. Trentenne, ma no. Io le posso dire che le porto il mio, non sempre per mettere mezza per persone. Quanto in grado, professore? Ci professore, tanto abbastanza. Sì. Anche io, insomma, me la cavavo non male prima della malattia, circa con un rapporto di, diciamo, di 15-18 anni a vantaggio della gioventù. Ho capito. Ma secondo lei è in grado di dire quello che dicono che abbia fatto, cioè di avere, per esempio, che ne so, 4-5 rapporti in una stessa notte? No. Guardi, io per la verità queste cose se non le vedo non ne posso confermare. Quindi però sarebbe in grado di farlo, sarebbe in grado di avere una super attività sessuale Berlusconi, secondo lei? Ma io sono convinto che lui, come in tutte le cose, le torna a ripetere, io non devo leccare, diciamo, niente a nessuno, quindi sì, veramente, certo, per carità, la mia esperienza personale collegata a 20 oltre anni, più anni, diciamo, di amicizia e anche di controllo fisico generalizzato, e ce la potrebbe fare. Ce la potrebbe fare ad avere un'attività diciamo superiore alla media, cioè anche entriamo nel dettaglio, scusi, anche 4-5 al giorno, insomma. Qua non lo posso dire io. Qua non si può dire. Direi una fesseria. Però un'attività sessuale superiore alla media ce la potrebbe fare, ma scusi, con l'aiutino di qualcosa oppure no? Non ho capito. Con l'aiuto di qualcosa ci sono varie possibilità, come lei sa, oppure no? Io le dico che ho fatto adesso che diciamo dopo tutto quello che ho avuto ho ripreso blandamente la mia attività sessuale e mi sono aiutato con qualcosa e cioè cosa? Sta funzionando. Cosa? E le assicuro che tutte queste fesserie che dicono sulla pericolosità si tratta invece di trovare quella giusta e senza esagerare. Non esagerare, soprattutto non esagerare. Ma allora scusi, professore... lei, dunque, si sta parlando di pilloline, no? Beh, sia di pilloline sia anche di iniezioni. Di iniezioni, ma lei ha mai prescritto delle pilloline o delle iniezioni anche a Berlusconi? Immagino di sì. No, a questo punto. In questo terreno non mi sono mai addentrato. Vabbè, però lui avrà chiesto dei consigli, posso prendere questo, posso non prenderlo, fa bene, fa male. Certamente, e ho fornito la mia esperienza medica personale, però di cui... È personale, però di cui naturalmente non posso parlare perché no, certo. Però Berlusconi le ha chiesto se posso fare le iniezioni, posso, che tipo di iniezioni posso fare, posso prendere questa pillola o no? Vede, questo diciamo che essendo una questione di carattere proprio squisitamente medica, sì. Io non è che per scansarmi, ma veramente non ne posso parlare. No, però comunque insomma si può dire che ha fatto che vuol dire per avere questa prestanza fisica qualche aiuto ci deve essere, no? Ma per carità, è tutto regolare. Non lo posso dire. Comunque le ha chiesto. Io le posso parlare di me. Se però le ha chiesto. Parli di me, gliele parlo. Certo, di però le ha chiesto qualche parere. Vabbè, è normale, questo si può dire. Ed è normale. No, ma per carità, lei è medico, il suo medico. Andiamo a sentire la borsa, no, che borsa, la pubblicità e torniamo subito. Eccoci qui, sono le 20:00:24:00:24. Insomma, Berlusconi resisterà, non resisterà, è sul viale del tramonto. Io volevo fare però una precisazione, che a me è stato chiesto di fare questa intervista per presentare il libro. Eccoci il qui. Mio libro che è uscito oggi, sì, che no, si chiama Il cielo. Sì, sì. Il cielo può attendere, almeno certo. Qualche parola su questo. Vabbè, lo vogliamo dedicare. Si figuri. Professore? Sì. Professore? Sì, ecco. ti sente. Ah no, ecco, chiedo scusa, perché sono collegato da Ponza, professore. No, volevo solo chiederle questo, così chiudiamo questo capitolo, diciamo così, dedicato al sì, premier. Che per la verità si può anche ricollegare al... No, ma infatti si può ricollegare al libro che adesso leggerò molto attentamente nei giorni che mi rimangono di vacanza qui a Ponza. Però volevo chiedere questo, visto che lei ha già accennato a questa attività sessuale del Premier, non entriamo nel merito, nei dettagli, le medicine, le cose che vengono date, ma si può paragonare, diciamo così, questa attività a quella del signor Siffredi, del signor Rocco Siffredi? Cioè, no, io su questo non le rispondo perché mi sembra una cosa troppo volgare e banale. No, ma nel senso che è una questione politica. Non Berlusconi in sé, ma dico, mi rivolgo a tutti gli anziani che ci ascoltano, che hanno 60 anni o 70 e giustamente hanno ancora voglia di guarda, fare sesso. Ci sono questi farmaci nuovi che ora ci sono. Possono aiutare se scelti bene, questo sì. Cos'è che possono aiutare se scelti bene? Le torno a ripetere, sia sì. da quelli iniettabili come il Caperjet al Viagra, a una quantità adesso altri di nuovi derivati che ci sono. Però le torno a ripetere, me la fa la cortesia. Sì, adesso dire una parola. Come no, ma assolutamente. Scusi un attimo una cosa, però mi dicono, lei è tornato a visitare Berlusconi 2 settimane fa, no? Ma non è Zangrillo il medico ufficiale di Berlusconi? Sì. E beh, lui si occupa di tutta la parte clinica. E lei invece? Io mi occupo della parte antistress. Ah, ho capito, c'è questa divisione del lavoro, no? È interessante questa cosa. Interessante. Lei si occupa della parte antistress, perché evidentemente... La parte antistress che poi in effetti è quella che, come le dicevo, serve a mantenere l'equilibrio della salute del nostro organismo. E che cosa ha prescritto 2 settimane fa Berlusconi da questo punto di vista? Ce lo dica, è interessante. Non posso entrare nel merito di questioni cliniche, capisce che violerei. No, capito, però le ha comunque prescritto comunque, qualche cosa. Se lei però vuole parlare un pochettino di sì, adesso arriviamo. Voglio dire al professore, che è anche deputato, do un suggerimento che magari accoglierà forse da deputato, che sarebbe interessante inserire in finanziaria sgravi fiscali per tutti quegli anziani che non hanno soldi abbastanza per comprarsi queste medicine. E un impegno del professore perché ci sia una sessualità tra gli anziani. Non dico finanziata dal governo perché sarebbe troppo, ma se si riesce, le dico, il segreto è quello di riuscire ad evitare degli stress troppo forti. Un po' di stress fa bene, addirittura pensi che Seli, lo scopritore dello stress, diceva che la nostra vita è come una barca a vela, che per poter camminare ha bisogno naturalmente di una buona quantità di vento. Il vento rappresenta lo stress. Se però poi questo vento aumenta, sì, la barca affonda e quindi sballa tutto quanto il sistema. E scusi, da 1 a 10, da 1 a 10 Berlusconi, quanto l'ha trovato lo stressato l'altra 2 settimane fa? Non ho capito. Da 1 a 10, se uno vuole fare una classifica, no? No, io adesso le rispondo solamente sul cielo può attendere. No, vabbè, quindi se lei continua, come lotta a chiedermi questo, io la ringrazio. No, per carità, ma non deve fare così, professore. Voglio dire solo questo. In questo libro in cui racconto la storia di questi 80 giorni di coma, e dal quale sono uscito ed avevo avuto la previsione di sopravvivenza di 1 mese e mezzo, e ora sono passati 2 anni e mi trovo in buono stato di salute. E noi siamo molto contenti. Devo di dire questo. Che voglio, io credo che mi hanno fatto ritornare, perché io stavo passando nel tunnel di luce e me ne stavo andando al di là, in grazia di Dio, e le devo dire che credo di essere stato rimandato indietro per dare questo messaggio, che bisogna rispettare la vita, difendere la vita fino alla al fine. Massimo grado. Fino alla fine, sì. Fino alla fine, nel senso, bisogna combattere anche quando uno sembra essere in situazioni quando disperate, no? Di essere alla fine, non c'è fine. Guardi, quello che ho avuto io è il massimo. Ho avuto in questi 80 giorni ho avuto 5 polmoniti, 6 sepsi differenti, blocco renale, ho avuto di tutto. Eppure ho resistito. Perché? Perché credevo da una parte nei valori scientifici di quello che stavo facendo, certo, ma dall'altra anche nella parte spirituale. La parte spirituale a volte sorpassa pure la parte scientifica. E dunque un piccolo messaggio di Scapagnini a tutti quelli che vogliono, per esempio, che venga staccata la spina, giusto Scapagnini? Io sono contrario a staccare la spina perché, vede, ci sono due ragioni. Una è che sapere resistere e essere convinti di volere valorizzare questo grande bene che ci è stato dato, che è la vita, rappresenta già di per sé un sistema per resistere e per poter sorpassare anche i gravi stati di malattia. E l'altra cosa è che nel frattempo possono comparire delle nuove scoperte scientifiche, queste non le rigetto affatto, certo. Tant'è che io sono guarito perché ho fatto un farmaco sperimentale che è un anticorpo monoclonale che si è dimostrato valido nella terapia nuove medicine. Sono guarito perché ho fatto questo anche perché ho fatto anche qualche altra cosa, ma principalmente perché ho fatto un anticorpo monoclonale efficace, che era sperimentale, assolutamente sperimentale, e che si è dimostrato efficace nel bloccare il tumore, che è uno dei peggiori che ci sia, che è il melanoma. Mi avevano dato un mese e mezzo di vita, sono passati 3 anni. C'è speranza, come sentite dalle parole di Scapagnini. Senta Scapagnini, una cosa però, questi discorsi non riguardano Berlusconi, essendo Berlusconi immortale, o giù di lì, o sbaglio? Diciamo che torno a ripetere, non ho capito perché ci mettiamo. Io non credo di avere valore solo perché il medico di Berlusconi. E chi dice niente? Infatti, lei ha parlato del suo libro, quindi, delle sue cose. Adesso... E quindi le torno a dire: io ritengo che, e questo lo ritengo con grande forza. Sì. Che è un uomo eccezionale, sia sotto il profilo cerebrale, ma anche sotto il profilo proprio psicofisico. Ha dei poteri di resistenza immunitaria che non tutti gli uomini hanno. Una sorta di superuomo. Di ripresa che non tutti gli uomini hanno. Un superuomo. Anzi, ben pochi. Una sorta di superuomo, si può dire, da questo punto di vista. Superuomo, sano, io non credo nell'esistenza del superuomo, ma credo nelle gradazioni dell'umanità, e lui è ai livelli più elevati. Più elevati. Si può fare un paragone con qualcuno? Cioè, cosa le viene in mente quando pensa a Berlusconi, lei, da questo punto di vista? Le sue capacità di resistenza, eccetera. Cosa le viene in mente? Ci sarà Ma guardi, dire che ho visto, l'ho conosciuto nel 67, e ho visto in lui un uomo nello stesso tempo di una grandissima capacità creativa, di una capacità inventiva straordinaria, però nello stesso tempo di una grande semplicità, e questo è molto raro nei grandi uomini. Però non le ricorda nessun grande protagonista della storia? Chi farebbe? Berlusconi. Mi ricorda Berlusconi. Dopo Berlusconi non c'è nessuno. Dopo lui il diluvio. No. Che stiamo facendo tutto questa intervista. Senta, ma per esempio, dunque, tra lui e Tremonti non c'è paragone, no? Dato che si parla molto di questo. Si tratta di personaggi completamente differenti. Certo. Non c'è nessun paragone da fare. Per cui no, cioè uno è nettamente superiore all'altro, no? Non si tratta di superiorità, si tratta proprio di differenza completamente. È totalmente abissale. Cioè Berlusconi sta molto sopra e Tremonti quanto sotto? Non si può dire né sopra né sotto, mettiamoli in parallelo non ne parliamo più. Senta una cosa, ma a me non le ha dato 2 settimane fa il consiglio di dormire di più? Non ho capito. Le ha dato il consiglio a Berlusconi 2 settimane fa di dormire? Questo voglio dire, lo posso dire, anzi lo voglio suggerire. Benissimo. Vede che praticamente noi abbiamo un ciclo del sonno che in effetti si esaurisce per circa il 50% nei primi 2 cicli. Noi sa che abbiamo da 5 a 6 cicli del sonno, però basta un ciclo o due, che sono 27 minuti, o due, per completare l'esigenza di circa metà di tutto quello che ci serve per una notte. Quindi io gli ho suggerito questa abitudine dopo mangiato, di farsi un sonnellino che possa andare dalla mezz'ora all'ora. Questo dopo Churchill. Quando ci si risveglia, si è pronti e svegli come al mattino. Ah, allora ho capito, dunque, però le ha consigliato... Lo suggerisco a tutti. Guarda, sì, lei ha consigliato a Berlusconi di mangiare a una certa ora, però anche la sera, o no? Perché se uno... Questo è un consiglio che non spesso viene seguito. Appunto, che quello è il problema. Se uno mangia a luna di notte, caro Scavagnini, qui poi non è però, che uno... se questo si riesce a distribuire in termini di calorie in maniera abbastanza obiettiva e ci sono dei tecnici per questo che possono seguire, cioè, senza esagerare naturalmente, si può anche mangiare al di fuori degli orari tradizionali. Senta, però io mi viene una curiosità, no? Poi concludiamo e la ringrazio molto. La curiosità è questa: secondo me Berlusconi non è un paziente che segue molto le indicazioni, è un po', da questo punto di vista, un po' birichino, mi dica la verità, cioè uno che sgarra un po'. Certamente, quello, il combattimento è quello. Però per fortuna abbiamo avuto veramente fortuna e in questo caso lo posso dire perché l'ha detto lui e quindi diciamo non è un segreto, e noi ci piacciono i segreti, non invece è un segreto medico e lui ha avuto questa due risposte non dico miracolose ma eccezionali. Una è che ha avuto praticamente l'epatite C nel quale il virus è scomparso. Sa che l'epatite C praticamente è pericolosissima perché è vero che se curata bene e rapidamente si abbassano tutti i parametri negativi, però poi il virus rimane dentro e dopo parecchio tempo molto spesso e invece lui è andato via. Compare una malattia del fegato molto grave fino alla cirrosi epatica. Invece lui è scomparso, quindi questo già è una cosa eccezionale. La seconda cosa è stata il tumore della prostata che è stato colto in tempo e non ha avuto bisogno nemmeno di fare irradiazioni né chemioterapia. E dunque già questo è un miracolo, dice lei, no? Già questo dà la dimostrazione. Diciamo che un miracolo, le posso dire una cosa, che si può, se vuole la può applicare anche a lui. A me si applicava benissimo, salvo questi ultimi 3 anni. Però aveva questo uso di dire che praticamente per il successo anche ovviamente politico, ma anche nel successo della vita, l'uomo argentino, ma comunque l'uomo in generale, ha bisogno delle 3 C, cioè cerebro, quindi il cervello, corazon, cuore e cojones, che si sa che cosa sono. Però no, cojones, no. Scusi, è cerbello, com'è la cosa? Questo cerebro, lo dice Berlusconi. Cerebro, quindi cervello, corazon, cuore, quindi coraggio, certo. Poi cojones. Coglioni, insomma, coglioni. Che so i coglioni. Questo lo dice Berlusconi, no? Sono convinto che senza la quarta C. E qual è la quarta C? Queste prime 3 C non servono a niente. La quarta C è il culo. Ah beh, su questo non c'è dubbio alcuno. Professore grazie. A me purtroppo la quarta C mi aveva abbandonato per un po' di tempo e però ora pare che stia ritornando. Senta, mandi la ricettina anche a noi alla Zanzara. Antistress. Ce la mandi. Venite a trovarmi. Io c'ho lo studio e faccio visite gratuitamente, stabilisco l'età biologica, non dica... e l'età anagrafica e poi possiamo fare, ed è veramente, questo è molto interessante, la previsione per la tendenza verso quale malattia si è disposta. Una cosa tremenda. Intervenire con farmaci assolutamente innocui come i neutraceutici, come le dicevo, i principi attivi che si trovano negli alimenti, e allontanare la comparsa della malattia. Capito? Allora, per concludere, onorevole Scapagnini, i giudici scrivono oggi che a Berlusconi piacciono molto i baci saffici. Lei che lo conosce bene, è vero? A me piacciono, per esempio, i baci tra due donne, vede? A lei piacciono? Ma io non mi pongo limiti. Non si pone limiti, Berlusconi. Berlusconi. Berlusconi. Non ho mai assistito, ma insomma, io le piacerebbe, però. Rispondere per me. Certo, le piacerebbe però, diciamo la verità. A me sì, a me. Non lo buttiamo via. Pure Berlusconi mi sa che da questo punto di vista è... Ma credo che anche lei, no? Io penso lei che è così esperto ha più o meno lo stesso tipo di tendenza, no? Ah beh, io sicuro, guardi. Grazie. No, quello là, no, guardi, Per quanto riguarda il culo, rivolgiamoci alla quarta C che ci deve proteggere. Ah, no. È molto meglio. Non ad altre cose, dice lei, no? Appunto, non quelli lì. Quelli lì quali? Diciamo metamorfici. Come metamorfici, professore? Non è che sono metamorfici. No, è tutto intero. Cioè, non è che gli omosessuali, dice lei? No. Le dico questo, preferisco il culo teorico. La fortuna rispetto a quello pratico, salvo che non appartenga all'altro sesso. Ecco, avevo capito bene, però in realtà ma noi ce la intendiamo bene, però naturalmente in senso buono. No, vabbè, quello sicuro. Grazie professore, grazie, a presto. Grazie a lei e grazie per avermi dato la possibilità di dire. Questo libro è un libro che serve a dare speranza. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Siamo qui alle 20:20, caro Parenzo, 800 24 00 24. Abbiamo imparato un sacco di cose dal professor Scapagnini, soprattutto che è tornato a combattere insieme a Berlusconi. E soprattutto prescrive a Berlusconi delle cure antistress, nonché dà dei consigli su pillole e altre cose. Meraviglioso, grande professore. Claudio da Milano, buonasera. Buonasera Cucciani, buonasera. Dica. Buonasera. Io farò un intervento in merito al tema delle intercettazioni. A proposito di questo, vabbè, intanto volevo anche io allinearmi con il suo pensiero e dire che non è che mi importa molto se Briatore pensa che la Santanchè sia una stronza o una santa. Questo non mi... A proposito della Santanchè, mi ha fatto venire in mente la Santanchè. Proviamo a richiamare la parola magica del giorno, Santanchè. No, dica intanto. Sì. Detto questo, però, volevo anche così esprimere il mio allineamento con il pensiero di Lepore che ho sentito intervistato da Lili Gruber l'altra sera. Sì. E così definire un attimo solo. Prego. Un attimo. Pronto? Signora Santanchè? Sono Silvia. Ah, buonasera. Ah, Silvia cara, come sta? Buonasera. Buonasera. La Zanzara, stiamo cercando l'onorevole Santanchè. Chi parla, scusi? La sento malissimo. La Zanzara, Radio 24, Cruciani e Parenzo. Buonasera, cara. Mi sente? Silvia? Pronto? Ci sente? Rimembra ancora quel tempo? Signora Silvia? Mi sente? Non mi sento. Amica mia. Secondo me qua sento. Non sento, pronto? Allora Claudio, che stava dicendo? Come lottano lì dalla casa? Ha lasciato il telefono a casa la Santa Che, no? Allora, proseguendo sulla riflessione sulle intercettazioni, Lepore l'altra sera diceva che comunque le intercettazioni sono di ritenersi un male necessario, in quanto le indagini pare che oggi vengono condotte principalmente a mezzo di questo strumento. Sì. Semmai andrebbero regolamentate in maniera diversa invece la pubblicazione delle intercettazioni e le eventuali fughe di notizie a questo riguardo. Però a parte la così un giudizio sulle intercettazioni in senso stretto, mi lascio esprimere anche il mio biasimo per tutte quelle persone note, talvolta anche di potere, uomini e donne intercettate, le cui intercettazioni sono state pubblicate, che poi insomma vestono i panni dell'agnello quando probabilmente durante il giorno sono abituati a fare i lupi. Nel senso che io che non sono uomo di potere, le mie conversazioni non hanno alcun contenuto importante. Se dovessi dire qualcosa di antipatico, mi guardo bene da farlo al telefono. Per cui se da un lato sicuramente queste intercettazioni non andrebbero pubblicate, e sicuramente queste intercettazioni devono essere, le fughe di notizie su queste intercettazioni punite più severamente e deve essere operato, deve essere valutato. Cioè cosa dovrebbero fare, scusi, i politici? Dovrebbero rinunciare a parlare al telefono o comunque a parlare in un certo modo al telefono? No. E allora? Sicuramente devono mettere in conto che qualcuno li può ascoltare. Purtroppo viviamo in un paese dove queste cose vanno combattute senz'altro. le pubblicazioni vanno regolamentate, come dicevo prima, però insomma, voglio dire, noi siamo tutti uomini di mondo, dobbiamo mettere in conto di poter incorrere in qualche contrattempo. Ho capito, però per carità, ci vorrebbe maggiore prudenza al telefono, non c'è dubbio, però insomma, mi pare un paese un po' strano in cui quello in cui a dover temere sono le persone che vogliono parlare tranquillamente al telefono, magari di affari loro, non sto parlando di eventuali reati che si possono consumare. Ma su questo siamo, o che si possono immaginare, insomma, se il consiglio deve essere quello, parlate di meno al telefono e parlate per codici cifrati oppure non parlate per niente, francamente mi sembra che la cosa migliore sia quella di cercare un compromesso sulla questione della pubblicazione, che va trovato, io non dico che bisogna essere draconiani da questo punto di vista, però sulle sanzioni e sul tempo, su quando si possono pubblicare le intercettazioni, io interverrei. Massimo da Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, no, io volevo intervenire, sono pienamente d'accordo con lei per le intercettazioni, però volevo intervenire sopra il discorso dei compensi dei parlamentari. Molte volte si parla dei costi della politica, ma non si parla dei costi dello Stato. Noi abbiamo dei alti dirigenti dello Stato che percepiscono dai 250.000, 500.000, delle cifre enormi come dirigenti dello Stato. La produttività di questi manager statali è tutta da verificare. Credo che bisognerebbe provvedere anche a un taglio di tali costi, perché e si potrebbe anche fare una nuova finanziaria in merito. Credo che. Ma su che cosa, scusi? Sui compensi dei dirigenti, ci sono dirigenti che prendono 500.000 euro o anche di più all'anno e francamente solo per svolgere la loro funzione, credo che la svolgerebbero anche nella stessa maniera al 50% di quel compenso, cioè oggi non esiste neanche più nelle aziende private. Un tale compenso. Sì, no, sicuramente più che gli stipendi da parlamentare bisognerebbe anche andare a vedere gli stipendi degli alti papaveri, come si diceva una volta, della pubblica amministrazione. Massimo, la ringrazio. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Milano. Marco, buonasera. Buonasera, dottor Cociani. Dica. Pronto? Intanto la ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire. Allora, volevo parlare a proposito della tassa sui SUV o sui fuoristrada o comunque sulle auto di una certa sopra potenza. I 170 cavalli, pare. Cavalli alias 125 kW, se non sbaglio. 170 cavalli, sembra, tanto Parenzo che gli frega, non c'ha la patente. No, ma ottimo tassare, ma sì, certo, non ce l'ho, ma ottimo tassare. No, allora, che ha questi macchinoni, volevo ottimo. Fare un minimo di considerazione. Io possiedo un fuoristrada o SUV, come lo si vuole chiamare. Benissimo. Benissimo, sì, grazie. Me lo sono comprato usato, me lo sono pagato, pago il bollo, che sono 635 euro, pago la benzina e ne pago tanta perché consuma tanto, pago l'assicurazione. Sì, ma pare che questo limite, 125 kW e 170 cavalli, comprenda addirittura alcuni modelli della Golf, ma insomma delle auto anche non solo i SUV, cioè praticamente moltissime auto, tranne le utilitarie, saranno colpite, sembra, da questa sovrattassa. Però chissà come mai... sovrattassa SUV, perché tutti ce l'hanno. Vabbè, ma SUV è un modo per far capire, no, le auto potenti, infatti si parla adesso di auto potenti sì, una piccola sintesi. Comunque alla fine quando bisogna andare a pescare soldi in più non è che si pensa a risparmiare, si vanno sempre a colpire queste robe qui. Però allora intanto non è il SUV o l'auto potente, lo sbaglio, è l'uso che se ne fa, cioè se io SUV lo uso per fare 500 metri come io vedo nel mio quartiere. Per andare a prendere, ho capito, ma non si può discriminare da questo punto di vista. Come fai? Cioè... lo usi quanto vuole. Sì, però, ok, ma non è colpa del SUV, è colpa della persona. Ok, vai con chiusa parentesi. Allora, dicevo, io ne pago abbastanza di tasse, penso, giusto? Ma quante auto potenti ci sono intestate a persone? Ma che vuol dire? Sono intestate a aziende? Ma non è vero, ma sta parlando? Ma le auto potenti sono intestate a un sacco di gente, anche a privati, non necessariamente ad aziende. Abbia pazienza. Ma allora, per la mia statistica personale che ho visto... Ma ho capito, la sua statistica personale non rappresenta nulla, scusi, detto con tutto il rispetto, signor Marco. Cioè, non è che le auto potenti in Italia sono intestate tutte ad aziende, ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Guardi, io non so se sono favorevole o no, so solo che ogni volta si prevedono aumenti, comunque aumenti di tasse, perché questo è un aumento comunque di un importo. Sì, sono da... chi ha di più, chi compra la macchina grande, ma chi la deve, ma che ne sai, ma la passa, no, ma no, macchine, no, sono no, macchine no, normali, sono macchine normali, ma che no, chi ha di più, ma chi l'ha detto? Ma io, ma mi piacciono moltissimo le macchine grandi, ma non è vero, non è questo, perché ma è viva mettere le tasse su queste, ma su già quelle ci utilitarie. Sono le tasse su quelle, di più, di più, ma che di più, ma di che parli, ma non è vero. Sì, molto di più, tutte tasse in più, tasse in più, certo. Questo tasse è un provvedimento intelligente. Dove vuoi prendere? Ma che? Qui dalla sì, panda, provvedimento scusa, intelligente. Ma che, e che vuoi tassare? Chi vuoi tassare? Io, povero, ma veramente non bisognerebbe aggiungere altre tasse in Italia. Bisognerebbe risparmiare più che aggiungere altre tasse e aumentare. Ecco, appunto. Premesso che bisognerebbe abbassare la pressione fiscale in generale, questo, su questo non c'è ombra di dubbio, ridurre le aliquote, eccetera. E allora, siccome appunto, non lo fanno, fino a quando lo fanno, tassare chi ha di più. Ti compri il macchinone e ti becchi la bella tassa. Sarà contento Speroni, Sarà contento Speroni. Però l'altro ce l'ha in Germania, lì ce l'ha a Bruxelles. Ah no, beh sì, vedo che lo passano comunque. Magari è targata appunto, italiana. C'ha la macchina che va a 300 all'ora, va a fare le corse a 300 all'ora in Germania. Paga un po' di tasse in più, non è che mi dispiace, devo piangere? Va bene, piango. Mi dispiace per chi ha il macchinone e paga più tasse. Mi dispiace, vuoi che mi dispiace? Mi dispiaccia? Vuoi che mi dispiaccia? Va mi bene, va bene. No, se vuoi mi dispiace. Borsa, va bene. Borsa. Un borsa. Minuto e mi dispiace, ecco, mi dispiace. Eccoci qui alle 20:35, caro Parenzo, 800 24 00 24, in collegamento dall'isola di Ponza, Francesco da Novara, poi sentiamo i titoli della 7, stasera voglio sentirli. Cruciani, buonasera. Con io chi parlo? Mi chiamo Francesco. Sì, dica. Senta, ce l'ho un poco con Parenzo, direi la maniera di Rino Gaetano, non te regge più, è la sua brutta copia. No, dice, non dice niente di originale, è scontato, è un tifoso, è un giustizialista, è un cercaiolo. Io su ogni argomento le posso scommettere, io so esattamente come la pensa. La cosa soprattutto che non riesco a condividere, questo fatto dei giudici eccetera, a me sinceramente i giudici facciano il loro mestiere, ma mi incazzo che il popolo italiano deve aspettare i giudici per far pulizia politicamente. Questa sussidiarietà non mi piace. Allora il Parenzo che fa sempre il verso ai giudici, se la prende sempre lui, mi sembra cosa, il, come si chiama, l'alter ego di Bersani quando ha detto delle balle in politica. Ma perché non dice le balle che ha detto Bersani sul ad esempio sul nucleare? Ma perché deve essere sempre schierato tifoso? A me piace, guarda, io lo dico, non lo dico per piaggeria, quando parla lei è imprevedibile, posso condividere, ma quando parla Parenzo è un disco rotto, so esattamente come dice, non ne posso più. Guardi, che, guardi, sono talmente imprevedibile che la abbraccio. Ma Parenzo, non se la deve prendere. Io l'ho seguita pure in televisione perché a Novara si vede. Però cazzo, qualche volta dica pure una cosa di me. Se uno può essere di sinistra, ma io non me la prendo. Ma le giuro che non me la prendo. Le assicuro che non me la prendo. Ma scusi, no. ma lei sa che cos'è l'abuso di diritto? Lei sa che cos'è l'abuso d'ufficio? L'abuso d'ufficio è una cosa, l'abuso di diritto è un'altra. No, tutte e due hanno un fondamento comune, lo sa o no? Lei sa la storia del vigile. Vabbè, ma che ci vuole dire, la Francesco? Storia, no, voglio solo dire una cosa, faccio un esempio. Uno pur facendo un'indagine può anche commettere degli abusi, anche accettando un reato, se l'indagine è fatta per fregare qualcuno. Certo. È come il vigile che per vendicarsi la moglie che gli fa le corna passa sotto la casa della madre e della madre gli fa la contravvenzione. Anche ma se è indagato. Ma di ma nello specifico di che cosa parla? Cioè, parla il caso di Berlusconi, il fatto del giudizio immediato, non si è mai visto, stracciano i procedimenti, ma lo volete fregare? Fregatelo in un altro modo. Che l'abbia fatto, io non discuto il fatto, discuto il metodo. Io Berlusconi vado da Rio a casa, non aspetto il lavoro sporco che faccio gli altri, capito? Ma io non, a me e non godo di non godo del giustizialismo, ho paura. Ma il regime dei giudici non lo voglio, io faccio i giudici, ha capito? Dico semplicemente che c'è una differenza tra una persona come Berlusconi che cerca comunque in tutti i modi di fare delle leggi per sottrarsi al processo, a una persona come Giulio Andreotti, ad esempio, che si è sottoposto all'umiliazione di un processo. Alla fine della carriera, sì. È arrivata alla fine della carriera, uno che deve fare, si deve far impalare, ma deve reagire? No, dopodiché io mi auguro che Berlusconi venga assolto. Parenzo, non entro nel merito, forse neanche perché io non entro nel merito, sono un cittadino, se vuole mandare Berlusconi a casa col voto, ha capito? Bravo, lo faccia, non voglio che altri facciano supplenze, mi dà fastidio. mi dà fastidio, c'è questa qui, io non sono un cittadino bello. Scusi, amico mio, ma i giudici non è che fanno supplenza. È così brillante, è giovane, un'altra volta dica una cosa di destra. Ma scusami, ma i giudici non è che fanno supplenza. Se i giudici hanno una notizia di reato, amore mio, ma cosa devono fare? Ma scusi, no, ma che devono fare? Tu sei così ingenuo, sei così ingenuo, Parenzo, che pensi allora, che Parenzo, passano davanti le notizie di reato e i giudici dicono bene, adesso Parenzo, indaghiamo su tutto. Dai, su. Ma non è che indaghiamo su tutto. Dai, dai, dai. Alcune cose, dai, se mi tremonti, dai. Le dico solo una cosa, Parenzo, poi mi lascio perché so che io conosco. Ma io le voglio bene, posso dirle che le voglio bene. Ci sono i giudici che fanno un mazzo fino alla sera e non vengono sui giornali. C'è il giudice Livadino, è un eroe, quelli sono i giudici veri, ha capito? No, sono giudici bravissimi in Italia e non fanno politica. Bravi, sono la maggioranza silenziosa. Noi dobbiamo appoggiare quei giudici lì. E questa è almeno la mia. Va bene, grazie Francesco. Andiamo, Massimo da Roma. Massimo da Roma. Francesco, questo è quello che non capisce. Non c'è da appoggiare nessun giudice. Sì, ma tu non puoi pensare, che le indagini nascono. Le indagini nascono dal fatto che i giudici le devono fare per forza. C'è una grandissima discrezionalità. Sì, ma chiedo scusa, c'è una grandissima discrezionalità. Ma certo, esiste la discrezionalità dell'azione penale, d'accordo, che chiamano obbligatorietà, ma inventare discrezionalità. Ma viviamo ancora in uno stato di diritto? O no? Ma come, che c'entra? Perché allora c'entra, se le tesi della signora Boccassini e Forno sono infondate, verranno confutate in un processo che a questo serve. Va bene, allora per te è tutto normale, benissimo. Ma non è tutto Massimo normale, da Roma. No, è tutto, ma non è tutto normale, tutto funziona perfettamente, ci sono delle indagini, i giudici. Il ragionamento è questo: le indagini iniziano perché c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, i giudici, se uno deve sottoporsi al processo, aspetta, poi vediamo. Tra due, tre anni, quattro, eccetera. Che notizia? Aspetta, che forse c'è la notizia. Buonasera. Il dottor Vespa l'avete visto questi giorni? No. Non c'è? No. Le inchieste di Parenzo. Le inchieste di Parenzo. Non viene proprio per me. No, io veramente non te l'avevo chiesto. No, mai visto qui. Incredibile. Grazie. Uno dei negozi più frequentati. Le inchieste di Parenzo a Ponza. Aspetta un attimo, che clamoroso scoop. Dice che il negozio è più bello di Ponza, ma non è ancora mai venuto qui. Ma però è qui, Vespa. È certo che è qui. È Ponza. Si aggira col plastico quando viene qui. No. Ma che si è fissato questo plastico? No, pensavo venisse col plastico. Se ci costa in vacanza, costruisce il plastico. Va bene, Massimo da Roma, buonasera. Le inchieste di Parenzo. Volevo dire, fare soltanto un piccolo appunto al signor Parenzo. Anzitutto volevo rispondere a quello del signor Rotondi, rispondendo che il bel tacere non fu mai scritto, cioè era meglio che si stava zitto. Poi però voglio dire una cosa, signor Parenzo, perché molto spesso si fa questa consuetudine di paragonare degli stipendi a degli altri. Certamente un professionista non ha uno stipendio di un metalmeccanico. Certo. Mi segue? Sì. Però ci vorrebbe anche da un'altra parte un certo rigore per esempio, non per quanto riguarda il costo vivo della politica, perché la politica ha dei costi e questo lo sapete perfettamente, però altresì non si può nemmeno dire queste cose nei confronti di persone a cui si chiede un sacrificio. Quindi un piccolo diciamo esempio da parte della classe politica ci serve in questo momento. Però dall'altra parte certamente c'è un popolo che non ce la fa quasi più. In che senso non ce la fa più? Non ce la fa più di passare da un governo all'altro senza che danno delle risposte effettive. Quindi, devo dire la verità che io non sono così catastrofista in generale, però è tutto questo, no? Tutta questa discussione, Parenzo, sulla manovra economica, cosa fare, non fare, le aliquote che poi non vengono abbassate, giù di lì, per poi partorire che cosa, a parte la questione delle tasse sul trading e delle banche, che sarà tutta da valutare, per partorire la tassa sulle auto potenti, ma di che stiamo parlando? Cioè, quello è un aspetto, quello che abbiamo letto sui giornali, capito, è un aspetto però ci vuole, hai capito, consulti, ministri, quello arrabbiato, quell'altro favorevole, eccetera, per poi partorire una delle cose che viene più rilanciata oggi, c'è la tassa sulle auto potenti, cioè che è una cosa che, vuol dire, nelle finanziarie di tutti i 20 anni sarà stata fatta 2, 3, 4, 5 volte. Cioè, l'aumento del ticket. Sì, no, ma al di là adesso poi le valutazioni possono essere tante. E dipende come gli fai gli aumenti. Se fai degli aumenti sulle speculazioni, sulle operazioni finanziarie, secondo me è giusto, ad esempio. Sì, no, ho capito. Cioè, l'operazione finanziaria deve essere tassata di più del lavoro di chi crea ricchezza. D'accordo, adesso non sto entrando nel dettaglio, sto dicendo che abbiamo no, letto e ascoltato un grande sì, no, ma hai ragione, è vero, per poi alla fine quello che viene fuori, la tassa sulle auto potenti, bah. Francesco, no, certo, dalla provincia di Brescia, non ci sono più, non c'è più il taglio dell'aliquota, almeno viene rimandato, nemmeno l'età pensionabile delle donne, credo che c'è, no, un rinvio anche 2000, per questo, se non ho visto va al 2014-2013, rinvio... no? Vabbè, mi pare. Francesco, dalla provincia di Brescia, dica. Pronto, buonasera, volevo precisare una cosa sulla definizione di bordello, secondo me è completamente sbagliata, perché il bordello è quel luogo dove accedono i clienti, c'è cioè una molteplicità di clienti, un luogo adibito all'esercizio, per... in realtà invece quello che è successo a casa di Berlusconi era suo uso esclusivo, era solo per lui, quindi una questione di prostituzione. Ma poi vedremo se questo termine è quello che vuole intendere, quindi il pubblico ministero, verrà poi, come dire, no, confutato o meno nelle aule del tribunale. Quindi secondo me è sbagliato, anche se quello che è successo lì è molto più grave, perché lui in realtà ha circuito delle minorenni sfruttando la sua immagine di uomo famoso, uomo politico, e quindi è una cosa gravissima, molto più grave del bordello dove viene esercitata la prostituzione da parte di persone adulte e consenzienti. Secondo punto, volevo intervenire, un ascoltatore ha detto che non c'è reato quelli che ridevano del terremoto dell'Aquila. In realtà il reato c'è, perché c'è un reato di vilipendio di cadavere, ma si configura non nei loro confronti, ma nei confronti di chi ha pubblicato quelle intercettazioni, perché loro stavano ridendo tra di loro. Il vilipendio c'è quando si ride, si offende il cadavere di fronte ad altri, quindi volevo precisare questo. E poi un'ultimissima cosa. Ma lei cosa... fa l'avvocato, scusi Francesco? No. Beh, non lo so, se lei pensa addirittura a un reato di vilipendio di cadavere. Esiste questo reato. Beh, ho capito, farci? Esiste questo reato, ma adesso voglio dire, è una malattia, non è che sia a tutte le relazioni umane si debba applicare per forza un reato. Ho detto che esiste, l'ascoltatore diceva che non è un reato, in realtà il reato c'è. Poi, ma secondo lei il reato c'è, naturalmente, no? Ah, certo. Non è scritto nella. Un'ultimissima cosa volevo dire sulla questione del Presidente del Consiglio, no? Che ha sostenuto che secondo lui Ruby era la nipote di Mubarak, no? Ancora allora, questa storia? Questione, sì, ma velocemente, perché mi ricollego al medico, ma che è una roba vecchia. Prima, il medico di Berlusconi, rapidissimamente. Allora, un Presidente del Consiglio che sostiene questa cosa, le cose sono due: o sta dichiarando il falso, quindi in cattiva fede, oppure secondo me è un Presidente del Consiglio che crede veramente che una minorenne che ha conosciuto eccetera è la nipote di Mubarak, allora si sta comportando o da rincoglionito o da coglione. Quindi ricollegandomi al fatto del medico che diceva che ci vogliono le tre C, cioè cervello, cuore e coglioni, in questo caso mi sembra che il coglione ci sia, ma in questo senso. E comunque il problema in ogni caso è un problema di natura politica, perché esiste la Costituzione italiana, dice che il Presidente del Consiglio quando si insedia giura nelle mani del Presidente della Repubblica di fare esclusivamente gli interessi della nazione. Allora sicuramente il Presidente del Consiglio, facendo quella questione, dichiarando che Ruby era la nipote di Mubarak, sicuramente ha messo l'Italia di fronte a una crisi diplomatica a livello internazionale, quindi non ha fatto gli interessi della nazione, e quindi è un problema politico. Il Presidente della Repubblica dovrebbe chiedere le sue dimissioni. Benissimo, Francesco, lei conosce benissimo la Costituzione, il Presidente della Repubblica chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio. Che lavoro fa lei, scusi Francesco? Non credo che questo sia rilevante. Eh beh, però glielo chiedo, ma qui... Preferisco non dirlo, perché non è attinente con il contenuto di quello che ho detto. Ho capito, non è l'interrogatorio questo qua. No, siamo... infatti io le dico semplicemente che preferisco non dirlo. Ho capito, ma questa è una casa di vetro, tutti quanti noi dichiariamo che lavoro vabbè, facciamo. Io ho detto semplicemente preferisco non dirlo. Posso ho capito, dirlo, ma preferisco di no. Ho capito. Per dare maggiore valore al contenuto del mio intervento, capisce? Sì, no, per carità, ma ognuno può dare valore a quello che vuole. Sto dicendo, certo, se lei ci dice che lavoro fa, e così. Come ho aspettato un'ora per intervenire, lei adesso vuole buttarla sul cabaret. No, io non la sto buttando sul cabaret. Interessa. Lei sta dicendo una cosa, ha detto delle cose che per me non saranno in cielo né in terra, ma detto questo, va bene, questa è una mia valutazione. Benissimo. Soprattutto quelle che il Presidente della Repubblica dovrebbe chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio, una cosa che evidentemente non è possibile. Dunque sono curioso di capire le lascio la curiosità. Che mestiere fa, scusi? Le lascio la curiosità. Non vuole rispondere, benissimo, traffico. Eccoci, 20:49, Francesco da Latina, buonasera. Salve, buonasera, io volevo intervenire sull'argomento dei rifiuti di Napoli e volevo semplicemente dire che a mio giudizio la parte che immondizia che deve essere mandata fuori Napoli è soltanto legata al fatto che una parte delle responsabilità che ci sono nella problematica della dei rifiuti sono di carattere governativo, perché diciamo la parte della giustizia, l'amministrazione la parte di polizia dello Stato e quindi la lotta alla camorra, che è in parte responsabile per la situazione dei rifiuti, questa non è imputabile ai cittadini napoletani, e quindi quella quota parte di rifiuti è tutta della collettività, quindi non è che devono essere solidali le altre regioni, se devono prendere perché fanno parte della collettività. E quali sarebbero, quali sarebbe la quota parte che fa della collettività? L'aliquota io questa non la so calcolare, però non si può dire pregiudizialmente non li voglio perché sono dei napoletani. Io questo stavo dicendo. No, ma non è questione di napoletani, è questione che prima o poi questa storia che i rifiuti vanno fuori da una regione per andare ad un'altra regione deve finire, cioè non è che può durare. Finirà quando ognuno farà le sue parti. Quindi beh, appunto, lasciamo perdere quelli chi fa la sua parte o chi no. Prima o poi questa storia dell'emergenza, che i rifiuti escono fuori da una regione che non riesce ad autogestirsi da questo punto di vista, tutte le province, deve finire. Cioè, non c'è poco da fare. Sono d'accordo con lei, io sto dicendo come farla finire. Il modo che a mio giudizio è per farla finire, che ognuno si assuma le sue responsabilità. Sì, vabbè, quello è scontato che ognuno si assuma le sue responsabilità. Non è scontato, perché se siamo così vuol dire che non è scontato, no? Ma non possono uscire, cioè, voglio dire, perché secondo lei cos'è questa storia della quota parte, no? Mi spieghi? Io cerco di spiegare, magari non sono stato chiaro. No, evidentemente non è stato chiaro. Cioè, io lo rispiego. Semplicemente che a mio giudizio una parte delle responsabilità del sistema di gestione, la parte della camorra, diciamo, no? Che gestisce i rifiuti, quelli diciamo che più tossici, dell'apertura e della chiusura delle discariche, non è una problematica appunto legata anche alla camorra. Questo risulta anche a lei o è soltanto una mia invenzione? Sì, no, e allora? Allora, dico, questa parte qui diciamo deve essere affrontata dallo Stato, non può essere affrontata dai napoletani. Quindi se lo Stato non affronta... Ma adesso non si sta parlando dei rifiuti tossici, cioè si sta parlando dello smaltimento normale dei rifiuti urbani. Io dicevo che una parte sono rifiuti tossici. Ma quali rifiuti tossici? Si sta parlando in questo momento, l'emergenza riguarda i rifiuti urbani, quello che... Riguarda i rifiuti tutti, tutti quanti. Vabbè, riguarda tutti i rifiuti. Dico, scusi, secondo lei la camorra ha delle responsabilità per quanto riguarda la situazione dei rifiuti a Napoli o no? Ma certo, allora... Allora, se ce li ha, allora il problema della camorra è un problema nazionale. Sì, ma che c'entra con lo smaltimento in altre regioni, scusi? C'entra, la lotta alla camorra è un fatto nazionale. Allora, i rifiuti devono per forza uscire dalla campagna. Sì, è certo, ovvio, per carità, è ovvio. Sì, a mio giudizio è ovvio, infatti sono usciti da 20 anni, no? Sì, infatti. Va bene, grazie. Prego, Roberto dalla provincia di Varese. Parenzo, vuoi commentare? Ma mi pare evidente che in una situazione come questa anche il signor De Magistris dovrebbe decretare lo stato di emergenza, e siccome la situazione è eccezionale, perché è eccezionale trovare cumuli di spazzatura, è evidente che... Certo, non si capisce quale sia il piano di De Magistris al di là del fatto di raggiungere il 70% di... Quello è un obiettivo. A Salerno dove hanno la differenziata non hanno le discariche perché hanno la differenziata. Quindi in questa fase dovrebbe chiedere lo stato di emergenza, e eccezionalmente è chiaro che tutti devono farsi carico del problema, sennò lì nessuno lo risolve, questo è evidente, però deve essere una situazione temporanea, non è che poi ogni volta i rifiuti vengono mandati al nord, questo mi pare la palissiana. O in altre regioni. Marco da Roma. In altre regioni, certo. Marco? Pronto? Dica. Pronto? Io sono Marco da Como. Sì, Marco da Como, sì. Sì, allora, volevo ringraziarla per i 30 secondi di Berlusconi dell'inizio, ringraziarla per l'intervista a Scapagnini, al dottor Scapagnini, che ha fugato gli ultimi miei dubbi in merito alle eccessive fantasie della vita privata sulla vita privata di Berlusconi, e poi in merito a Karima e Mazzucca, volevo dire questo, io settimana scorsa ho letto un trafiletto sul mio giornale locale in cui rimaneva sorpresa per l'arresto di Lele Mora dalla sua vacanza in Messico. Io sono trasalito. Perché non può andare in vacanza in Messico? 10 anni di immigrazione, il mio lavoro. Un permesso di giustizia, per giustizia. Sulla carta d'identità, se te la danno, c'è scritto non valida per l'espatrio. È accusata di furto, di false generalità. È proprio unta dal Signore. Perché in 10 anni di immigrazione non ho mai visto una persona che potesse permettersi prima di andare al ballo delle debuttanti a Vienna e guadagnare 40.000 euro e poi dopodiché andare in vacanza in Messico. Non capisco qual è il crimine di andare al ballo delle debuttanti a Vienna permesso, ma non lo so, lo potrà fare, immagino, non è latitante la signora Rubi. È questo il fatto. Ma come il fatto? Perché lei la vorrebbe vedere in galera, non ho capito. No, per legge una persona con un permesso per motivi di giustizia, un essere unitario, non può lasciare il guardi, io non conosco la, no, ma lei lo conoscerà, ma lei non conosce la situazione, esattamente la situazione giuridica della signora Ruby Rubacuori. Non penso che sia fuggita, inseguita dalle guardie. Ma che ne sa lei che tipo di permesso è? Quando ma che c'entra quello che è uscito sui giornali rispetto al fatto che non può andare fuori? Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Ma non è stata inseguita dai signori alla frontiera. Ma non c'entra l'inseguimento. Beh, benissimo, Marco. Allora, va bene. Allora, inseguite la signora, secondo l'ascoltatore Marco, che conosce bene le carte della, dei Ruby Rubacuori, il fatto che sia in Messico e poi a Vienna è illegale, è contro la legge. Benissimo. Forse c'è notizia qui, forse. Forse c'è notizia. Dimmi. Siamo, questa è la caffetteria dove viene Vespa, vero? Sì. Vespa, sì. Viene spesso Vespa, no? Certo. L'ha visto in questi giorni? Non ancora. Perfetto, abbiamo la notizia. Non è ancora le inchieste di Parenzo. Ci sentiamo domani, 18.30. Salute. Ciao. Ciao, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.